Yo, lo spirito del suolo. Spirito del suono, good vibe a me. A te bro, come va? Non so. In una giungla di però, perciò perché? Perché mai accadrà in una giungla di paranoia. Ci siamo dentro fino al collo, la noia. Sbagliamo fino a che la droga non ci fa fuori sta noia. Paranoia di un giorno che non verrà. Stranoia di tutto ciò che poi sarà. Voglio ballare fino a che il sole risorge. Fare come un tuono che rugge. Essere lo spirito del suono. Un capolavoro, un essere umano vero. Lo spirito del suono che verrà. Lo spirito del suono che verrà. Lo spirito del suono che verrà. Spirito che entro me ruce, negli occhi intinge, un sorriso lungo fino alla laringe. Ci siamo quasi, il nero tinge di inchiostri semantiche. Di mostri, siamo qui, asfaltiamo, siamo qui e siamo l'essere ultraumano, quasi disumano, un mostro sacro nano, dalla good vibe a me, a te, viviamo come lucertole, siamo regine e re, ruba cuori di un'altra era dell'etere, ma quello sparato, annusato, da una macchina dal tubo catalitico etere. Come in paura e delirio a Las Vegas etere. Etere.